the shoot, baby. Shoot. Ritorniamo con una nuova cena di Malaradio. Domenica 13 febbraio allo spazio Micene. Micena. Cominciamo alle 18 con un aperitivo a cura di Mercoledì di Micene, che presentano anche la cassa di resistenza. A seguire, cena dalle ghiotte ricette. Siete tutte e tutti invitati in via Giuseppe Pinelli 4, ex via Micene. Per informazioni, Facebook Libero Spazio o Facebook Malaradio. Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Vi diamo il benvenuto a Cronache di Regime, il nuovo programma di Malaradio Milano. Sigla! Ci sono muri che sentono e vedono, ci sono spine nel mio microfono, so bene che sono soltanto un numero tatuato sotto la pelle, con un codice a barre come sbarre d'acciaio. Non credo alle palle, hanno messo gas in nome del progresso nel mio ossigeno. Controllano, parlo al telefono, camuffo il mio lessico, più che il braccio di un tossico. La mia testa stretta da un laccio, catene di montaggio, uomini automi, danno olio all'ingranaggio. Con le bianche al potere, tra bocchini sotto scrivanie, tracciano strategie per nuove lobotomie. Squali, vogliono vegetali, schiavi in fila come militari. Perciò mandano i loro emissari a scuola i miei professori, in strada pubblici ufficiali, messaggi subliminali nei televisori, predicatori vendono la fede a rate, comprare ubbidire, ma non sapranno mai le mie coordinate. Non hanno capito che la chance che mi piego subito, che una moneta cade croce 100 volte di seguito, valgo più di 4 cifre, non credi? Cronache di regime, cose che non vedi. Cose che non vedi, cose che non vedi, cospirazioni per il 2000, per il 2000, scuola. Allora, 19.03, prima puntata in diretta di Cronache di Regime. Ricordiamo subito i nostri contatti, se volete scriverci in diretta via SMS o via Telegram potete farlo al numero 351 55 79 68. E potete scriverci anche alla pagina Facebook e Instagram Cronache di Regime con la K, e potete scriverci anche se volete un'email a cronachedi.regime@autistici.org. ricordiamo, perché per ascoltarci, se volete girare il link ai vostri amici o alle vostre amiche, potete farlo, basta andare sul blog malaradio.noblogs.org e cliccare quando e dove ascoltarci. Allora, spieghiamo un po' cosa vuole essere Cronache di Regime. Vuole provare ad essere un programma che vuole fare un mix, insomma, di aggiornamenti tra il mondo delle sbarre a cielo aperto e quello di vivere dentro le gabbie, con uno sguardo a cosa accade in città e dintorni, senza tralasciare logicamente le nuove uscite musicali, punk, rap ed oltre. Oggi in questa puntata parleremo di un po' di quello che è successo in Kazakistan a inizio gennaio, e poi faremo un collegamento, una telefonata in diretta con un compagno per parlare degli aggiornamenti repressivi in Sardegna. Parleremo anche con degli studenti che ci spiegheranno un'occupazione di un liceo che c'è stata a Milano, insomma, della situazione studentesca attuale in questa città. Ci collegheremo poi con un rider per parlare del suo licenziamento, del licenziamento che ha subito da parte di una piattaforma di food delivery. E infine faremo un'intervista musicale a un nuovo gruppo punk hardcore nato a Milano che si chiama Nitenia. Per introdurre il prossimo argomento, che appunto è Kazakistan, proviamo a sentirci una canzone di un gruppo kazako rap, nello specifico Fire Rap. Allora, la traduzione, il titolo del nome del gruppo in italiano si chiama Postmortem, e la canzone si chiama Statistica. Вот с открытыми лицами, когда идут, проверяют, ничего не страшного. Самое страшное, когда в масках. Не знаешь, с каким намерением он пришел. 9 половиной грамм свинца и 20 латуни на всего лишь один снаряд. На одну пулю отливка, формовка, фриз, блиц, контроль. Один патрон узнает скоро свою роль. Быть за добро или пронзать мирных, убивать неверных, либо невинных. Хотя какая разница, пули по барабану, кто стреляет из винтовки, а кто дышит на ладан. Ну ладно, путь не близок, мерцает гильза, чьи-то лица вскрывают, в чем-то убедиться. Близится конец, мотор заглох, все рассыпают, ломают ящики, парочкам патроны втыкают, вникая в проникновенную речь командира. Идут хозяева винтовок в штурм с идеей мира. Атака без предупреждения, будь то враг или население. В глухом селении солдатов семеро. Сухой полдень, песок и ветер саманный. Дом Акана взводит тот самый патрон в нем. Крики, плач, сын прячет за спиной мать. Звучит хлопок, на ее лице багровая рябь. Смерть человека, горе, сотен статистика. Пули были разрывными, гласит баллистика. Листьями засыпало все, что осталось от них. Останки обернулись списками чисел сухих. Смерть человека, горе, сотен статистика. Пули были разрывными, гласит баллистика. Листьями засыпало все, что осталось от них. Останки обернулись списками чисел сухих. Пацан хули молодой, полез на рожон. Пуля разнесла рот, мир закрутился как аттракцион. Удар остатками затылка от бетон. Голову свернула на бок, все видит батальон. Но не в пацане суть, он статистика войны. Что не поглотит земля, после сожрут вороны. Мать вряд ли опознает, когда у сына нет лица. И лишь глаза, все остальное снес заряд свинца. Они видят отчий дом штурмовиков, триколор. Как творят мир, нарушив договор. Лысым псинам приказали не проглатывать бром. И теперь сестер раздевают на полу сыром. Врагов не хоронят, перемалывают танками. Жрут водку за победу, глумятся над останками. Это, я уверен, не покажет останки. На нашего героя выворачивает наизнанку. Голову расплющило и глаза не видели, как миротворцы прикончили родителей. Очередью отца одной пули мать. Нет лица, нет глаз и некому опознавать. Сотен статистика, пули были разрывными, гласит баллистика. Листьями засыпало все, что осталось от них. Останки обернулись списками чисел сухих. Нет человека, горе, сотен статистика. Пули были разрывными, гласит баллистика. Листьями засыпало все, что осталось от них. Останки обернулись списками чисел сухих. Allora, torniamo in diretta. Questi erano i Post Mortem, come detto, gruppo death rap dal Kazakistan. Abbiamo provato a controllare un po' il testo e non pare che ci fossero espressioni o comunque un linguaggio violento, sessista e macista. Volevamo provare a rassicurare i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. E come detto, abbiamo mandato questa traccia per introdurre il primo argomento del quale volevamo trattare oggi in puntata, insomma parlare un po' di quello che è successo in Kazakistan all'inizio gennaio. Cos'è successo in Kazakistan all'inizio gennaio? Ci sono state delle rivolte che sono iniziate il 2 di gennaio, appunto, dovute principalmente all'aumento in maniera smisurata del 100%, quindi il doppio del prezzo del prezzo dei carburanti, del metano, GPL, benzina, ma anche aumento dei prezzi delle risorse primarie, dell'alimentazione, del cibo. E poi a tutto questo si è unito un po' il malcontento popolare a causa dell'autoritarismo del governo, della sua corruzione ed anche a causa della brutalità della polizia, che è stata più volte, tra virgolette, segnalata dalle persone. Sono stati violati, e vengono violati anche da anni, i diritti minimi civili. Insomma, a noi non ci interessa tanto parlare di diritti civili, però insomma le guardie in Kazakistan non sono di sicuro dei dolcetti. Volevamo contestualizzare un po', insomma, prima di andare a parlare delle rivolte, dove è esattamente il Kazakistan. Ok, ringraziamo un ascoltatore che ci dice che ci va a immergere il microfono, ma purtroppo siamo così online, niente, quindi ci dobbiamo adattare un po', proviamo un po' a migliorare. Quindi, insomma, il Kazakistan è uno stato molto grande, non uno stato più grande al mondo, è grosso più o meno quanto l'Europa occidentale, ed è sicuramente un crocevia, è un collegamento tra l'Europa orientale e l'Asia. Sì, mi dicono ancora online anche che si sente eco, ma purtroppo... E come dicevo, il Kazakistan è uno stato, insomma, che è un crocevia sia economico che commerciale, culturale, geopolitico. Diciamo che dal 1991, dalla divisione dell'URSS, entrata a far parte della comunità dei stati HSI e comunità dei stati indipendenti, è iniziato a intrattenere accordi commerciali sia con gli Stati Uniti e sia con l'Europa, ed è di sicuro a livello governativo è sottomesso alla Russia di Putin, mentre invece strizza l'occhio a livello commerciale alla nascente forza economica e comunista, capitalista, se così si può chiamare, Cina. Dal 1991 è comunque il Kazakistan una dittatura, infatti è salito al potere Nursultan Nazarbayev, che è stato il presidente appunto dal 1991 fino al 2019, quando ha lasciato l'incarico a Tokayev, che ha incaricato lui stesso ed è stato confermata la sua elezione presidenziale sempre nel giugno del 2019. Si continuano a dire, si va di il microfono, però purtroppo siamo in diretta e dobbiamo adattarci, e i mezzi sono quelli che sono. Grazie ancora ai nostri ascoltatori. Come dicevamo, insomma, Nursultan Nazarbayev ha poi fatto costruire una città apposta che si chiama Astana, che ha deciso di farla diventare la capitale ed è stata risoprannominata Nursultan. Tra l'altro il Kazakistan è il primo produttore al mondo di uranio, l'ottavo di carbone, il tredicesimo di petrolio ed il secondo in generale di bitcoin. Ora non entreremo nel merito dell'analisi di tutte quelle persone, quelle riviste o quelle associazioni che si occupano di geopolitica, che dicono che in realtà queste rivolte sono scoppiate a causa del bitcoin. A noi non ci interessa un po' capire cosa è successo in questa settimana. All'inizio le proteste sono partite dalla regione del Mangistau, appunto in Kazakistan, in maniera pacifica, però piano piano sono andate sempre più degenerando. Sono scoppiate violente rivolte, violenti scontri anche con le forze dell'ordine, soprattutto nella città di Almaty, che era la vecchia capitale, e comunque è quella che rimane attualmente la città più importante del Kazakistan. I numeri parlano alla fine di questa decina di giorni di scontri e di rivolte, di più di 5.000 persone arrestate, oltre 160 manifestanti morti, circa 750 feriti, una ventina di poliziotti, quasi una trentina, scusate, una trentina di poliziotti morti, tra cui due decapitati. Ma all'interno di queste situazioni, insomma, di rivolta, la cosa che farci ragionare è che appunto i manifestanti hanno attaccato 5 sedi televisive, tra cui la TV di Stato dall'Almaty. Hanno chiuso tre aeroporti, hanno circondato tre aeroporti e quindi sono stati chiusi di seguito, e uno invece è stato totalmente devastato in seguito all'occupazione dei manifestanti. Quindi il traffico aereo in tutto il Kazakistan è stato bloccato, i voli sono stati annullati, ad una certa il governo, per cercare di contenere la rivolta, ha anche bloccato internet per evitare che i manifestanti si dessero il tantam con i vari social, i vari appuntamenti di lotta. La banca centrale dopo 3 giorni, il 5 gennaio, ha annunciato la sospensione di tutte le operazioni. Nel frattempo l'Almaty era completamente in mano ai rivoltosi, sono stati anche circondati 2 ospedali, l'ospedale 1 e l'ospedale 7. L'immagine che è un po' ci è arrivata in maniera un po' più forte. Diciamo in Italia sono le scene di quel palazzo governativo dato alle fiamme dei rivoltosi, e quello è il palazzo del municipio, il palazzo del comune, che è stato appunto occupato, assaltato e totalmente devastato, e lì fuori poi si è scatenata una sparatoria contro la polizia e contro l'esercito. E in un'altra città che si chiama Taraz, che è anche la sesta città più grande del Kazakistan, sono state attaccate 3 stazioni di polizia e date alle fiamme 50 automobili. Logicamente tutto quello che diciamo è fonte, purtroppo sono fonti appunto dei mass media di regime, di sicuro non, questi dati saranno assolutamente parziali, soprattutto per quanto riguarda i morti, i feriti e gli arrestati, però ci sono state situazioni veramente interessanti, quindi con Cronache di Regime volevamo iniziare questa prima puntata e parlare insomma della prima rivolta un po' grande che c'è stata nel mondo. Il governo poi tra il 5 e 6 gennaio ha disposto il dimezzamento dell'aumento dei carburanti, la rivolta non si è placata e anzi aumentata in maniera esponenziale, ed è stato disposto il coprifuoco, quello che noi subivamo l'anno scorso per il lockdown, un coprifuoco loro dicevano sanitario. Ci teniamo anche a ribadire che appunto il coprifuoco è una misura militare e viene applicato in questi casi quando insomma lo Stato inizia a perdere il controllo delle sue città e il suo potere dove l'esercita inizia a inserire il coprifuoco, quindi sono state date delle limitazioni dalle 23 alle 7 in varie città e le persone non potevano né più entrare né più uscire. Le conseguenze di tutto questo, a una certa, per arginare il tutto, la Russia di Putin, che è insieme al Kazakistan nell'organizzazione del Trattato per la Sicurezza Collettiva, dovrebbe chiamarsi l'OCSI, ha deciso di inviare delle truppe in Kazakistan, delle truppe di pace per ristabilire l'ordine, circa 3.000 militari. E ad una certa il governo si è dimesso, quindi il primo ministro Mamin ha lasciato il posto al primo viceministro, si è sciolto il governo, attualmente diciamo il primo ministro temporaneo è Smilov, e lui ha annunciato che ci sarà il ripristino per 6 mesi dei prezzi di benzina, gasolio e GPL, gas di petrolio liquefatto. Quindi diciamo che almeno l'obiettivo è in maniera parziale temporaneamente è stato ottenuto per il rincaro dei prezzi di carburante, non c'è stato questo, però questa cosa però durerà solamente 6 mesi. Un'altra notizia che è giunta proprio oggi, che è stata revocata dopo un mese l'allerta terrorismo, dopo una decina di giorni comunque l'allerta terrorismo, logicamente lo Stato ha provato a spingere sul fatto dei terroristi che arrivavano anche dall'Europa orientale o dal Medio e Vicino Oriente, aveva messo un'allerta rossa che è diventata arancione dal 13 di gennaio, e che è notizia proprio di oggi, questa allerta è stata revocata. Di sicuro la Russia di Putin ha provato ad inviare queste truppe anche per evitare l'effetto eco, no, di tutti i paesi sovietici ancora con dittatori, o ad esempio la Bielorussia, ricordiamo l'anno scorso ci sono state rivolte anche lì e ci sono state molte persone arrestate, la situazione di esposizione al regime per la durata per mesi. E volevamo annunciarvi che comunque nella prossima puntata proveremo sempre a parlare un po' di argomentazioni geopolitiche, e ci sposteremo dal Kazakistan abbastanza vicino più o meno, e proveremo a parlare insomma dell'Ucraina e della crisi che c'è ora in atto in Ucraina tra Ucraina e Russia, con il Donbass, e parleremo anche delle navi da guerra russe che stanno attraversando in questo momento il Mediterraneo. Va bene, proviamo a tornare ora invece con un po' di musica. Ringraziamo i nostri ascoltatori che ci hanno inviato i messaggi. Non so se siamo riusciti a risolvere il problema, proveremo nella diretta insomma a risolverlo. Ci sentiamo sempre un altro gruppo che proviene dal Kazakistan, questa volta è un gruppo punk hardcore. Questo pezzo è tratto da una compilation del 2000 che si chiama Stepanks, assolutamente autoprodotta con tanti gruppi punk hardcore kazaki. Il gruppo si chiama Podvigov Nurkena e la canzone è tradotta in italiano, in inglese è Strange Drunken Boy. Proviamo a sentircela. Allora, 19.25, torniamo in diretta con Mala Radio, anzi con Cronache di Regime, il nuovo programma di Mala Radio Milano. Dopo i Podvigov Nurkena abbiamo sentito Iobophobic con Lacrima Mare, questo è un pezzo che parla insomma della resistenza in Palestina. Volevamo ricordare che sul nostro sito, sul sito di malaradio.noblogs.org, c'è un podcast che è dedicato alla Palestina con delle voci che sono state raccolte dal presidio in solidarietà che c'è stato sabato 22 gennaio 2022 in via Padova. Rimaniamo, questo era per rimanere in tema insomma con l'argomentazione del Kazakistan di prima. Ora invece proviamo a collegarci in diretta con un compagno dalla Sardegna che ci spiegherà un po' e ci parlerà un po' degli aggiornamenti repressivi riguardo le sorveglianze speciali che sono state richieste ai compagni e alle compagne in Sardegna. Questo un po' anche per legarci al lavoro che facevamo l'anno scorso in diretta il giovedì con Malaradio. Per un periodo abbiamo provato a seguire insomma, tutte le richieste di sorveglianze speciali che le varie procure d'Italia hanno provato ad appioppare e ad affiliare, e in alcuni casi ci sono riusciti ai compagni e le compagne sparse per lo stivale e non solo. Infatti parliamo di Sardegna e ci faremo anche due chiacchiere riguardo l'antimilitarismo. Ora proviamo a contattare il compagno sperando sempre che ci risponda. Scusate per prima se c'era un po' d'eco, non so se c'è ancora, però questo è il bello della diretta. Ciao, ciao, pronto, ci senti? Forte e chiaro. Perfetto, ciao, benvenuto a Cronache di Regime. Allora, niente, grazie. Appunto, come già anticipato, volevamo parlare un po' della sorveglianza, delle sorveglianze speciali che sono state che il Partito di Cagliari ha provato a dare a dei compagni e delle compagne insomma in Sardegna per delle lotte che si portano avanti. E quindi niente, appunto ti facciamo questa domanda anche rispetto all'anno scorso, insomma come si è evoluta questa richiesta di sorveglianza speciale, soprattutto come queste sorveglianze speciali sono correlate al 270, ovvero all'associazione al delinquere finalizzata al terrorismo, ridenominata Operazione Lince, che sempre la procura locale ha provato insomma a contestarvi. Allora, innanzitutto la storia di queste richieste di sorveglianza è ormai bella vecchia, specialmente la partenza, nel senso che le richieste di sorveglianza ci sono state notificate a ottobre 2019, tre settimane dopo che c'era stata notificata l'operazione Lince, quindi quella che dicevi tu, per 270 bis. La connessione che lo stesso PM ha fatto, cioè lo stesso dell'operazione delle richieste di sorveglianza, è una connessione per cui se sei indagato terrorismo, sei un soggetto socialmente pericoloso, se sei un soggetto socialmente pericoloso è giusto che tu abbia la sorveglianza speciale. Quindi lui, come dire, si è cautelato con due forme di attacco differente, una di un lungo periodo, quella di un procedimento penale comunque lento e contorto, come sappiamo essere i processoni delle operazioni repressive, diciamo, canoniche, e uno più immediato, che invece è quello delle misure di prevenzione, di cui la sorveglianza speciale è la più afflittiva. Diciamo che la sua idea era quindi quella di cercare di intrattarsi con la sorveglianza nel giro di poco tempo, e quindi la prima udienza della sorveglianza speciale era fissata per il dicembre del 2019, quella per, come si può dire, per nostra fortuna saltò per dei vizi di forma, e poi da lì in poi praticamente si è messo in mezzo il Covid, che tra le tante cose negative ce n'è qualcuna positiva, perché praticamente le udienze per una serie di casualità sono state calendarizzate dentro i vari periodi di lockdown, quindi il primo, quello che partì nel marzo 2020, poi il secondo, quello dell'autunno 2020, poi il terzo, quello della primavera dell'anno scorso, Quindi di rinvio in rinvio, anche complice un'altra serie di errori nelle notifiche, nella formulazione delle richieste della procura, l'udienza vera e propria si è svolta a più di un anno e mezzo di distanza dalla richiesta, e la risposta poi è arrivata a ottobre di quest'anno, precisamente il 27 ottobre. La risposta è stata positiva per noi, cioè un rigetto completo su tutto il fronte. Il PM aveva chiesto 3 anni di sorveglianza per 5 con 4 compagni e una compagna, con delle misure anche abbastanza pesanti, aveva chiesto obblighi di dimora, rientri notturni, insomma aveva optato per una richiesta ciona, probabilmente sperando magari di ottenere qualcosa di meno, e invece per fortuna nostra non ha ottenuto niente, anche perché del tempo sono venuti meno alcuni presupposti fondamentali per la richiesta delle sorveglianze, quindi l'attualità della sicurezza sociale, specialmente quella che lui aveva teorizzato nella prima parte, e poi in generale comunque diciamo che gli anni precedenti di pandemia non sono stati anni di lotte particolarmente interessanti, quindi anche noi, anche per questo diciamo troppo difficile, nel bene e nel male, secondo di come la si vuole vedere, non continuare a prendere troppe denunce e troppe segnalazioni. Quindi ad oggi la vicenda delle sorveglianze è stata conclusa, e si è fatto alla richiesta, e invece il processo per terrorismo, a cui il rinvio giudizio ha fatto ragione al PM, e quindi verremmo processati in primo e secondo grado per terrorismo, differentemente dalla maggior parte dei casi del resto d'Italia degli ultimi anni, in cui invece molto spesso ad ogni giudizio le tesi di PM venivano affattate dai GUP, invece in questo caso non se le sentono, nonostante l'inconsistenza delle prove, non tanto diciamo le prove specifiche, ma le prove legate al reato del 2030, forse notevole questa inconsistenza, il GUP ha comunque tenuto l'accusa. E quindi il 6 dicembre di quest'anno è iniziato il processo in Corte d'Assise a Cagliari. Siamo ancora in fase di istruttoria, perché è un processo grosso, ci sono 45 imputati, e quindi non è facile diciamo istruirlo, in grado si può definire un processone, e la prossima udienza ci sta per il 31 marzo. Ok, sì, in risposta insomma anche a questa situazione qui, ovvero l'avanzamento del processo per terrorismo, per operazione Lince, per un po' di compagne, è stato comunque organizzato, non solo per, penso che rientri anche all'interno di tutta la lotta, la prospettiva di lotta militarista, un corteo contro le basi militari in Sardegna il 19 dicembre, tra cui i compagni e le compagne di Malaradio sono riusciti a interagire con qualcuno di voi, sia lì in diretta il giorno stesso del corteo, raccogliendo delle voci, e poi c'è un podcast insomma che spiega un po' bene cosa è successo quel giorno lì. E ti volevamo chiedere invece rispetto alle prossime iniziative, se ci sono iniziative in programma o come pensate che insomma si possa sviluppare o si possa rilanciare la lotta nei confronti insomma, dell'antimilitarismo, nei cui confronti è partito l'attacco repressivo da parte dello Stato. Ma allora, diciamo che come hai detto bene tu, quel torneo lì è stato chiamato proprio all'indomani della conferma delle accuse di terrorismo, proprio in risposta a questa situazione, anche perché diciamo che negli ultimi anni le lotte antimilitariste avevano sicuramente subito una notevole flessione, aumentato ulteriormente dal Covid, che non aveva comunque lasciato diciamo grandi margini, grandi momenti per potersi riorganizzare nelle forme che avevano invece preceduto la fase del Covid, che sono poi quelle lotte che sono dentro la tradizione di Lynch. Quindi diciamo la fase di forza, credo, così insomma, seguendo un po' le assemblee in questo periodo, che sia superata, nel senso che l'assemblea che ha organizzato questo corteo, diciamo, ha finito questo suo mini percorso di insomma, che organizzare una giornata che fosse una risposta alle, insomma, alle scelte dei giudici e alle richieste del PM. E ora questa stessa assemblea si sta ponendo l'obiettivo di fare un, cioè, di partecipare a quello che è un po' il rilancio generale delle lotte contro le basi militari in Sardegna, che è una lotta che comunque diciamo da sempre ha vari attori in campo, non esiste un solo soggetto promotore di iniziative. Questa assemblea qua è uno dei soggetti in questo momento, magari sono meno che in passato, però comunque sono almeno un paio, due o tre, e ci si sta proponendo di cercare di organizzare dei momenti di lotta durante la primavera. Quindi questo è in questo momento diciamo la fase. Non ci sono per adesso date che io vi posso pubblicizzare già sicure, però credo, insomma, senza, spero di non essere smentito, credo che nel giro di qualche settimana una nuova data uscirà, perché comunque è sicuramente un momento positivo rispetto agli anni scorsi. C'è un gruppo di persone che fanno parte di chi ha lottato gli anni precedenti, e un numero consistente di persone che si sono affacciate abbastanza di recente alle lotte, per cui c'è una buona amalgama che in questo momento sta cercando di ragionare su cosa sia più adatto a fare per riprendere la strada delle lotte contro le basi. Bene, perfetto. Allora aspettiamo che esca fuori una chiamata da parte vostra e magari ci risentiamo anche più in là con la radio, così se volete, avete date, ci spiegate un po' qual è l'intenzione o cosa si farà. E niente, intanto ti saluto e ti auguro una buona serata. Grazie mille per la disponibilità. Vi saluto anche io, grazie a voi per averci chiamato e sentirci presto. Ok, perfetto. Un abbraccio. Un abbraccio. Ciao, ciao. Ciao, ciao, perfetto, abbiamo sentito insomma il compagno da Cagliari e ora ci sentiamo un pezzo di un gruppo sardo che si chiama Terroristas, scusate, il gruppo si chiama Libero Battaglione. Fiamme alte che colorano la terra di nero, che bruciano e macchiano il profumo del vento, che saziano i maiali, che ci vomita in cemento. Hai sette del mio sangue, fame della mia terra, è confuso il mio popolo per una truppa di mangiamerda. Ma è qui che sbagli tutto, perché io lo chiamo furto. Sei pianto il mio albero e tu ne mangi il frutto. Tutto ti piace, vero, mangiatelo tutto. Ma occhio al veleno che pulsa forte sotto di botto, esploderà sotto il tuo culo. La furia di una terra che ti affronta, stai sicuro che non sarà le bombe che gireranno il vento, spaccheremo il culo a voi e non a un monumento. Ancora, cuccia ancora, cuccia, cuccia, cuccia ancora. Minacciate chi devasti, spacchi, picchi in galera. Divora cani, ricchia, smava, maglia e divora. Ancora, cuccia ancora, cuccia, cuccia, cuccia ancora. Che tu conca, che tu berretta, lascia in peso, che tu conca, che tu terrorista. È un 1.000.000 e mezzo, dai, per me che devi mannicare. Ma è te come sarò da convinta, da tirare troppo male. Dai, me ne protene, protene, da me ne veleno, veleno, veleno. Sammenete, sammenete, sammenete, sammenete, sammenete, sammenete. Paracula, paracula, contrabomba, se fusile, sarei

Partiamo subito dalle due evasioni che ci sono state in carcere quest'anno. Una c'è stata a Vercelli, è proprio il primo gennaio, quindi si è iniziato l'anno, come si dice, con il botto. Due detenuti sono riusciti ad evadere segando le sbarre e calandosi in lenzuola. Uno è stato subito ripreso, mentre invece un altro detenuto è ancora ricercato. E poi 10 giorni dopo c'è stata un'altra evasione al carcere di Avellino, l'11 gennaio. Tre detenuti sono riusciti ad evadere al carcere di Bellizzi, uno è stato preso subito dopo. Ed invece uno, è notizia proprio di oggi, è stato arrestato oggi a Francia, i regimi dicono che sia un detenuto radicalizzato. Comunque, in tre sono evasi, ancora uno è fuggitivo e speriamo che le ali della libertà, insomma, di questo ragazzo evaso dal carcere di Bellizzi e dell'altro evaso dal carcere di Vercelli possano continuare a spiegarsi. Vediamo anche un paio di aggiornamenti riguardo un paio di rivolte che ci sono state. Mese scorso ad Areno Irpino una sezione ha provato a rivoltarsi, si è rifiutata di andare dentro le celle durante la chiusura notturna e hanno tentato di sfondare il cancello. Ci sono venute molte guardie per sedare la rivolta, purtroppo. Invece, notizia di oggi, ieri dovrebbe esserci, o ieri o l'altro ieri, comunque, stata una rivolta all'interno del carcere di Catanzaro. Sono stati allagate le celle, danni a quasi tutte le celle, è allagata la sezione, almeno tre agenti feriti, e qui invece per sedare la rivolta hanno dovuto chiamare proprio anche i secondini che se ne stavano belli a casa magari a mangiarsi il loro pasto mentre i loro colleghi rinchiudevano i ragazzi in 3 metri per 2. E quindi siamo contenti, insomma, di queste notizie che arrivano. Di sicuro saremmo più contenti se le rivolte fossero durassero di più e riuscissero a distruggere il carcere, però comunque incriccare anche il sistema carcerario in questa maniera e lottare da dentro evidentemente si può. Un'altra notizia arriva dal minorile di Catania. Un po' di giorni fa, esattamente il 31 gennaio, dei detenuti hanno dato fuoco ad una cella che hanno reso un po' inagibile tutta la sezione. Pare che un secondino si sia intossicato, però vabbè, quando i secondini si repertano si sa sempre che decidono loro cosa farsi scrivere dai medici. Con questa notizia ricordiamo anche, appunto, visto che abbiamo parlato del carcere minorile di Catania, preannunciamo già che il 3 aprile a Milano ci sarà il presidio fuori a Beccaria, perché il carcere fa schifo. All my friends are bad kids, come dice il manifesto del Volantino, lo ripeteremo dopo comunque durante la iniziative. E niente, altre notizie che ci arrivano sempre sul carcere sono le dimissioni di Petralia da capo del DAP, dice per motivi personali. Petralia è quello che è subentrato a Basentin è il boia che, insomma, ha dato ordine insieme ai vari prefetti e ai vari procuratori di sedare tutte le rivolte che ci sono state nel 2020 per il Covid nelle varie carceri, e quindi anche lui colluso e responsabile con le morti che ci sono state nelle varie carceri, e in particolare nel quello di Modena. A Santa Maria Capovetere invece, riguardo i pestaggi del 6 aprile 2020, se vi ricordate, era stato aperto un procedimento penale. La procura all'oggi ha chiesto 32 patteggiamenti rispetto alle 108 persone, ai 108 secondini, sbirilli e compagnia bella, complici dei pestaggi, che sono andati al processo. Volevamo dare un'ultima notizia che è proprio praticamente quasi una last minute, sempre riguardo un processo che inizia in carcere, questa volta a carico dei detenuti. Per la stessa carcere di Salerno scatta il processo solo per 12 detenuti. Questo processo riguarda sempre le rivolte che ci sono state nel periodo Covid, quindi risalgono al 7 marzo del 2020, è notizia di oggi, quindi 12 detenuti rispetto ai 100 individuali dall'inizio andranno a processo per questo. Come ultimo aggiornamento riguardo il carcere, proviamo a darvi dei dati. È un po' brutto dare i dati delle persone che all'oggi muoiono in carcere, però è abbastanza interessante in realtà provare a capire quello che succede all'interno delle carceri. La popolazione carceraria attuale è sotto le 55.000 unità e da inizio anno ci sono stati già 8 suicidi e poi ci sono state altre 8 morti, di cui 4 sicuramente per malattie, ma 4 sono da accertare. Quelle da accertare solitamente sono quelle che si devono capire le motivazioni, se magari è per malattie oppure per stragi o suicidi indotti, come si dice. Va bene, noi continuiamo sempre con i nostri problemi tecnici. Purtroppo gli ascoltatori ci dicono che dobbiamo avere problemi tecnici. Noi vi assicuriamo che comunque nel podcast dovreste sentire bene quello che diciamo. Proviamo ad andare avanti con mille difficoltà. E ora ci sentiamo i Modern Talking con Who We Save the World. Allora, torniamo in diretta con Mala Radio. Ci sono stati dei problemi tecnici, ci scusiamo con gli ascoltatori e l'ascoltatrice. È caduta la linea, avevamo un po' di problemi di connessione e si sentiva male, però nel podcast prepareremo. Questi erano i Modern Talking, Who Will Save the World, è un pezzo anni 80. Volevamo ricordare che questo è uno dei pochi gruppi che della Germania occidentale che l'Unione Sovietica accettava, come questa è una richiesta di un ascoltatore, allora volevamo anche insomma sottolineare questa roba qui. Abbiamo messo questo pezzo qui perché appunto chi è che potrà salvare il mondo se non gli studenti e le studentesse che in questo periodo sono un po' in fermento a Milano. E allora proviamo a collegarci con un compagno che ci spiegherà un po' della situazione del liceo a Milano e ci parlerà un po' insomma di quello che è successo a Milano durante l'occupazione del Severi Correnti e più in generale. Proviamo a chiamarlo, ci mettiamo solo un attimo, scusate ancora. Ciao, ci senti? Sì, ci sono. Ok, ciao. Mi sento bene. Ok, perfetto. Ciao e benvenuto a Cronache di Regime. Allora, come detto, come anticipato, volevamo parlare un po' della situazione del liceo a Milano e dell'occupazione degli studenti e quindi, insomma, ti volevo chiedere le dinamiche che hanno portato a far sì che si occupasse questo liceo, se le ricorrenti, e se poi vuoi dirci un po' in generale anche la situazione degli altri licei milanesi. Certo, allora noi come collettivo del Severi Correnti circa un mese fa abbiamo deciso di incontrarci durante l'intervallo per discutere un attimo la situazione interna alla scuola. Sono emerse diverse problematiche, soprattutto strutturali ma anche legate alla socialità che per via delle normative anti-Covid è totalmente mancante. Di una scuola in cui c'è una carenza di confronto davvero notevole. Allora, nella nostra scuola è stato deciso di occupare anche per il comportamento della preside, nel senso che noi ci troviamo spesso a scuola con la polizia che entra, gli sbirri sono entrati diversi giorni con i cani della cinofila e hanno fatto uscire tutti gli studenti da ogni classe. La preside non ci ha praticamente mai ascoltato e anche quando siamo andati a parlare per i diversi problemi che riguardavano la struttura, anche il riscaldamento, non c'è stato alcun tipo di risposta. Soprattutto nella nostra scuola il riscaldamento non veniva attivato, quindi gli studenti erano costretti a seguire la lezione con la giacca addirittura addosso. Dopodiché abbiamo deciso di occupare la scuola e dopo un'assemblea abbiamo deciso di occupare la scuola e abbiamo organizzato 3 giorni di autogestione e di un confronto che ci sembrava mancare totalmente all'interno della scuola. Quindi abbiamo dormito nella scuola e organizzato dei collettivi divisi in diverse fasce su tematiche attuali come la Palestina, la solidarietà internazionale, oppure problematiche che affliggono anche la città come Milano, la gentrificazione dei quartieri periferici. E, questa occupazione in realtà ha portato molti benefici all'interno di una scuola come la nostra, molto grande, e in cui le normative anti-Covid hanno portato a una grandissima mancanza di socialità. Noi ci siamo vissuti in una scuola in cui non c'era stato modo di conoscerci proprio tra studenti, perché veniamo appunto da 2 anni di DAD in cui non abbiamo avuto nessun contatto con i nostri compagni di classe che gli studenti di terzo hanno praticamente conosciuto dal vivo quest'anno. Quindi abbiamo deciso di prenderci la scuola e di viverla come vorremmo vivere noi, che alla fine frequentiamo la scuola più di ogni altro. Ok, perfetto. E ti volevo chiedere invece se, se ci puoi dare una panoramica generale anche della situazione, insomma, a Milano, se sei di situazioni simili che si sono create nelle altre città, sia a Milano sia nelle altre città, no? Perché questa occupazione viene dopo di tutta la serie di occupazioni che c'erano state a Roma, se non sbaglio, prima di Natale. Non so se ci vuoi dire due parole anche su questo. Certo, allora... Innanzitutto oggi a Milano è stato occupato il liceo Carducci, che questa settimana rimarrà occupato con le nostre stesse modalità, e ci saranno delle giornate di autogestione e confronto degli studenti innanzitutto. A Milano è stato occupato anche il liceo Manzoni, e invece a Roma sì, c'è stata una catena di occupazioni che non si vedeva da diversi anni. L'80% delle scuole addirittura è stato occupato, e in seguito alla morte di Lorenzo, morto in alternanza scuola-lavoro, ci sono stati diversi cortei proprio che vedevano tutte le scuole che sono state occupate di Roma e non solo sfilare in corteo. E, tra l'altro anche a Milano, dopo l'occupazione di queste scuole, si è deciso di scendere in piazza contro l'alternanza, e la piazza è stata ricaricata dalla polizia, dimostrando una volta ancora che lo Stato dipende dallo sfruttamento che ci avvilige. Sì, questo è successo, se non mi sbaglio, giorno 28 gennaio, quando era stato chiamato un presidio in Missouri, appunto sull'alternanza scuola-lavoro, e si è dovuto partire da piazza Missouri per provare ad arrivare sotto l'asso Lombarda. Si sono schierati le guardie, e la prima volta hanno caricato, la prima volta con un alleggerimento, la seconda volta sono andati un po' più con la mano pesante. E niente, ti volevo chiedere appunto se comunque da questo percorso di occupazione poi all'interno della scuola o comunque all'interno dei collettivi, se vi sono organizzati tra di voi, si sono creati rapporti e dinamiche che possono far pensare ad altre iniziative. Mi viene in mente quella della manifestazione degli studenti 19, però non so se è lanciata dagli studenti universitari o meno, te lo chiedo. No, sicuramente un contesto come l'occupazione ha portato gli studenti a aggregarsi e a trovare nuove modalità di lotta che prima non si vedevano all'interno della scuola, e penso che sia stata proprio una boccata di ossigeno questa catena di occupazioni che sta caratterizzando questo anno scolastico. Ok, va bene, perfetto. Dai, ti ringraziamo, grazie mille per la disponibilità, e magari ci risentiamo più in là se succede qualcos'altro, se hai voglia ci rifacciamo due chiacchiere qui in diretta su Cronache di Regime. Certo, okay, buona serata. Perfetto, ciao a te, buona serata. Allora, sono le 20.04, noi continuiamo sempre con i nostri problemi tecnici, mi dicono che la voce va bene. Abbiamo sentito un compagno del liceo Stefano di Correng che è stato appunto occupato, e ora invece ci sentiamo una canzone degli RVA Working Class che ci va ad introdurre il prossimo argomento e soprattutto la prossima intervista. Ancora io non l'ho capito, sono un rider o no, ma questa merda la facciamo tutti quanti da un po'. Non sono un figlio d'arte, per un sogno ce l'ho, l'unica arte che conosco è quella dell'arrangio. Vita da rider, giro con la ganga come dicevamo Striker, guido un cigazzetta mica una fottuta spider. Questa roba suona e rimbomba tipo Thunder, pezza che l'Alberto Marchi ma quello di Camden. No crumiri, siamo in brasa con la Turi, prima chita l'hanno scritto sopra i muri, tra compagni e sostenitori, perché non siamo né soli né solo lavoratori, oh no. Da porta a palazzo che pitrial, faccio 9 km per portare un happy meal. Oh shit, voglio solamente stare in chill, se non lasciano la marcia porterò via un souvenir. Strade secondarie come topi nelle fogne, qui si sta con me d'autunno sopra gli alberi e le foglie. Okay. La lumière delle tenebre fanno giustizia di notte, cavalieri danzeranno sulle vostre tombe. Sfonda casse, quando pompano l'odio di classe, nei cortei ad Atene, contro su prose e catene, pesci rosso contro le balene, siamo fitti se ci va bene, prendi la tua roba e vattene. Ogni giorno una scommessa come se giocassi a dadi, porto l'antipioggia che gioca pure se fa 30 gradi. Cavalchiamo tutto il giorno come fossimo nomadi. Indovina chi fotte coi rider, esatto, non vale. E pompa questa merda, trema tutto working class rap. Spingi la più forte per le strane, voglio mille gang. Bocce la 66, fa culo il tuo muè. Ok, pecunia non ho let. Ma il tuo centro sociale manca solo il prime. Sempre pipì 38, sempre meno proleta. I soldati mi molesti, basta un po' di riem. Oh shit, mamma che mi chiede chi te lo fa fare. La compagna di merenda dice solamente discoteca. E invece un'esigenza viscerale, nella testa dei rider una voce grida. Monellato, scuola di intifada, ma stia accendo i sassi. Non conosci la fatica, ma parli di classi. Tutto giusto in teoria, se non fai la prassi. Oh, un muro grida che lo stile ha vinto e morti siete voi. C'è chi vuole tutto e chi soltanto eroi. Oh. Allora, torniamo in diretta. Questi erano i Rider with Attitude da Torino, working class rap. E ora proviamo a sentire un ragazzo che è un rider e si spende da molto tempo per i diritti dei rider, che è stato licenziato dalla sua piattaforma. Proprio 4 giorni dopo, il licenziamento è avvenuto 4 giorni dopo, dello sciopero generale che è stato chiamato il 22 gennaio qui a Milano per tutti i lavoratori a Milano, in tutta Italia, per tutti i lavoratori di Assistit. Ora proviamo a sentirlo e proviamo a farci una chiacchierata con lui. Ciao, pronto, ci senti? Sì, ti sento. Ciao, buonasera. Okay, ciao, buonasera, benvenuto a Cronache di Regime. Allora, niente, come detto, abbiamo descritto un po' la situazione, che se è un lavoratore, un rider, che sei stato, insomma, licenziato dalla tua piattaforma, e quindi volevo chiederti innanzitutto il contesto generale della condizione lavorativa dei rider, anche in seguito, insomma, a questo accordo che è stato fatto l'anno scorso, con una sorta di contratto a 10 ore, 20 ore, 30 ore, non si capisce bene da parte del lavoratore assumere i rider. Allora, il contratto in questo caso qua è un accordo che hanno siglato insieme alle confederazioni CGL, CISL e UIL. Ci sono appunto diverse tipologie di ore a disposizione, che sono appunto 10, 20 o 30 ore a seconda delle esigenze dell'azienda o a seconda anche del lavoratore, perché comunque va sottolineato che tanti lavoratori in forza alle piattaforme, tanti fanno un secondo lavoro come il sottoscritto e quindi optano volentieri magari per un range di 10 o 20 ore alla settimana. Ok, perfetto. E va bene, invece poi volevamo chiederti, insomma, il contesto più generale che ti ha portato al licenziamento, e anche se hai voglia di dirci due parole sullo sciopero generale che c'è stato il 22 gennaio, anche perché poi il tuo licenziamento è stato ufficializzato 4 giorni dopo da questa piattaforma. Hanno evitato, insomma, di farlo prima, se la sono studiate un po' bene, quindi volevamo un po' capire il perché sei stato licenziato. Allora, la premessa è che io sono un rider in forza alla piattaforma di Just Eat su Monza, e precedentemente allo sciopero del 22, che era uno sciopero a livello nazionale, c'è stato uno sciopero indetto dal sottoscritto il 29 dicembre. E lo sciopero si è svolto con tutti i presupposti di uno sciopero, quindi informando l'azienda che c'era un'agitazione sindacale in corso, e si è svolto davanti al McDonald's di Corso Milano, dove abbiamo presidiato appunto e coinvolto altri rider in forza ad altre piattaforme ad aderire appunto a convergere sull'idea e sul principio che oggi più che mai serve un reale contratto per tutti, non più a cottimo ma legato al CCNL, che prevede tutta una serie di remunerazioni fissate appunto dal CCNL logistica, quindi le indennità di 13esima e 14esima separate, insomma tutto quello che è in sé